fregato, mi son voltato e mai fregato, come un vento che soffia polvere lacrime, e sono in cerca di te, e sono in cerca di te. Yeah.